Entro il 2030 serviranno come minimo 3.000 alloggi in affitto a canoni sostenibili e sociali in più rispetto a oggi. Con le strategie che illustrerò, entro il 2030, come Comune di Bologna soli ne renderemo disponibili 1.500 tramite interventi pubblici diretti di inedita rilevanza. Altrettanti verranno ricavati chiaramente da interventi resi possibili da altri livelli di governo, dal mercato privato, dall'accelerazione che la variante al piano urbanistico generale potrà imprimere e tramite gli stimoli all'Agenzia per l'affitto, traghettando alloggi da piccoli proprietari, da enti e da istituzioni con cui dovremo dare forma a un'alleanza per l'abitare, come ACER, ASP, Istituto di Sostentamento del Clero, l'Università, i sindacati, il terzo settore. 2.000 alloggi saranno inoltre riqualificati dal punto di vista energetico. Per rendere fattibile questo piano, abbiamo previsto un investimento di oltre 200 milioni di euro di risorse pubbliche, in parte derivanti da operazioni già in corso e in parte da operazioni che metteremo in campo sin da domani. Sarà un piano che potrà determinare, in sinergia con le altre azioni strategiche che il nostro comune sta portando avanti, soprattutto su urbanistica e welfare, un effetto moltiplicatore se tutte e tutti sapremo metterci in gioco. Sarà un piano che ha l'ambizione di dare una risposta decisiva e concreta e sarà un piano inedito nella storia recente per mobilitazione di risorse economiche, per volume dell'offerta, per molteplicità delle strategie. Il Comune di Bologna c'è e con i nostri interventi vogliamo dimostrare che siamo pronti ad assumere un ruolo da protagonisti nel sistema abitativo della nostra città e non solo, anche in quello del nostro paese. Tuttavia, ai decenni di disinvestimento sulle politiche per l'abitare non possiamo rispondere da soli e per questo abbiamo dato impulso anche ad un'alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa. Il nostro piano, infatti, è un insieme di strategie e di strumenti sul medio e lungo periodo che partono da un concetto semplice: Bologna ha bisogno di più case in affitto a prezzi sostenibili, adeguati alle esigenze di quelle diverse città che vi ho sommariamente richiamato, case che non solo riducano i consumi energetici, ma che siano capaci di produrre energia, perché ci siamo dati un traguardo molto sfidante, quello di diventare una città ad emissioni zero entro il 2030, e questo è applicato a ogni ambito d'azione della nostra amministrazione. Sistemi abitativi capaci di costruire vere reti solidali di vicinato, cioè antidoti al rischio della marginalizzazione. Abbiamo chiamato la prima strategia Tre grandi poli per una nuova idea di abitare. Si tratta di tre luoghi della città che candidiamo a diventare un simbolo concreto della nostra visione di abitare. A Lazzaretto realizzeremo su area del comune un primo grande significativo intervento residenziale pubblico per l'affitto permanente, circa 280 alloggi, di cui 92 a servizio di un nuovo studentato pubblico. Un luogo che così potrà dare risposta a circa 600 persone e a oltre 180 studenti e studentesse meritevoli a basso reddito. Un investimento interamente pubblico stimato in 40 milioni di euro. All'ex Calo Ravone, tra via Casarini e la ferrovia, con le risorse del PNRR, è già in fase di progettazione il distretto dell'innovazione e dell'economia collaborativa, 9.000 metri quadri di superficie per circa 130 alloggi, metà dei quali verranno realizzati direttamente dal comune, con un investimento previsto di circa 11 milioni di euro. Per quanto riguarda poi l'ex caserma Stamoto, tra via Massarenti e viale Felsina, insieme all'Agenzia del Demanio, come Comune di Bologna, firmeremo nelle prossime settimane un protocollo d'intesa su Stamoto e su altre aree immobili di loro proprietà, nell'ambito di una più grande collaborazione strategica per la rigenerazione urbana. Per noi la vocazione di quell'area è di usi misti, con una forte componente abitativa, anche sociale, una grande area verde, residenze per studenti e studentesse e altri servizi, compresi quelli sportivi. Dobbiamo immaginare delle alternative alla proprietà della casa, altre forme di abitare, altri modelli. La seconda strategia ha infatti a che fare con la sperimentazione di forme di abitare collaborativo. Si tratta di 5 edifici pubblici che candidiamo a laboratorio di nuova convivenza. La terza strategia è infatti una composizione di programmi, tre programmi per rigenerare l'edilizia residenziale pubblica. Il primo è lo sfitto zero. È un programma che vale circa 12 milioni di euro e che vogliamo completare entro questo mandato amministrativo. Contrasto alla povertà energetica, l'obiettivo di migliorare la performance energetica e lo standard di qualità energetica dei nostri edifici di case pubbliche con la produzione da fonti rinnovabili verso comunità di autoconsumo negli edifici dell'ERP. Infine, la riduzione delle disuguaglianze nei caseggiati popolari. La quarta strategia riguarda una nuova governance per l'edilizia. giustizia sociale. La variante specifica al piano urbanistico generale, che è stata avviata dalla Giunta 2 settimane fa e a cui l'assessore Laudani sta lavorando da alcuni mesi, ha tra i suoi obiettivi quello di rendere più facilmente attuabili gli interventi di edilizia sociale. A questo scopo, la variante prevede l'incentivazione degli interventi privati che realizzino quantità di edilizia sociale maggiori rispetto a quelli chiesti dal PUG e la costituzione di un fondo per l'edilizia sociale alimentato da risorse ricavate dal trasferimento dell'obbligo di realizzazione di edilizia sociale e da altre risorse pubbliche. A fronte di interventi diretti così rilevanti, è molto importante la costituzione di un fondo sul quale richiamare il coinvolgimento di un sistema delle imprese nell'ottica di una concreta responsabilità sociale. Questo diventerà uno strumento in grado di nutrire e generare nuove operazioni di edilizia sociale. Infine, un sistema di gestione del sociale delle locazioni a cui gli attuatori privati possono affidarsi. L'agenzia sociale per l'affitto è il modo in cui il comune entra nel mercato dell'affitto come regista di mercato. La quinta e ultima strategia del piano riguarda l'attrazione e il trattenimento dei talenti nazionali e internazionali ed è coordinata dalla città metropolitana.